essere diventati umani e di valutare tutti gli aspetti di questo nostro tempo che non può solo essere considerato storico. Ma ringrazio la storia per essersi regalata senza farmi male. Appoggiato a quella balaustra con i capelli e la barba incrostati dalla salsedine e dall'umidità che gli arriva da quelle onde che si infrangono sugli scogli posti alla base di quel faro che ogni notte accende per dare una protezione, ma che a se stesso permette di potersi immergere con lo sguardo nell'orizzonte infinito del mare. Out of the shell si immerge nei propri pensieri come una bestia in tana, cantando canzoni da mangerò se le messe. disturba la fame negli ultimi minuti scanditi dalle ossa. La casa pericolosa, la città vuota di uomini e piena. Io sono una debolezza del passato, nessuno parla dietro me. La mia razza si assottiglia, nessuno parla dietro me. Di vita, ma ci vuole la vita per amare la vita. Out of the Shell è un semplice ed insignificante delirio di intervento sociale. Sono un delirio perché è un pensiero, o meglio, è un modo di esprimere un pensiero. È l'elaborazione e la metabolizzazione di una vita quotidiana che si esprime attraverso una forma che è quella di parlare ed esprimersi attraverso musica, parole, pensieri, letture davanti a un microfono. È un modo che nasce da tantissimi anni fa e che adesso si realizza in questa forma. Thank you. perché è proprio la forma che ho utilizzato per ritornare a comunicare lo rende indipendente. È stata costruita ad hoc, è stata costruita come quelle forme che fanno parte della sua generazione, come quelle forme in cui dentro le cantine si sperimentava, si comunicava, si elaborava, si costruiva. È indipendente perché come un delirio, come un brano musicale, un quadro, una poesia, un libro che viene scritto ogni giorno, è una specie di diario che si racconta e si tramuta e si trasforma con nelle cose positive, delle cose negative che butta o conserva nel momento stesso in cui esprime la sua esistenza. Ma di una cosa è certa, non può essere messo in gabbia, non ha padroni. Sempre a se stesso, è un piccolo granello di sabbia o una piccola lacrima, un granello di sabbia immerso nel deserto, una piccola lacrima che si immerge nell'oceano. Quando l'oceano e il deserto rappresentano un equilibrio cosmico di cui ognuno di noi fa parte o non fa parte, o è una semplice illusione. Questo crede di che per Out of the Shell è un intervento sociale. Out of the Shell fa parte di un grande contenitore, un contenitore che via via si spera che si vada a riempire. È un contenitore che comunica solo attraverso internet, attraverso il web. Il suo indirizzo è uno di quelli che state utilizzando per poter ascoltare questo delirio. Si chiama www.transizionedifase.org, ma è anche un suo canale diretto, quello attraverso il quale in un modo o nell'altro incontrate in anticipo quelle che sono le intenzioni, e potete commentare le intenzioni che in Out of the Shell vogliono essere sviluppate. L'indirizzo in questo caso è www.ots.it oppure www.outoftheshell.it. Chiaramente avete dei modi per comunicare con Out of the Shell. Quello immediato è utilizzare l'email. L'indirizzo è oots@libero.it. Poi, nell'immediato, in diretta, avete un orso con cui comunicare, e allora dovete utilizzare tutte le ramificazioni dell'MSN, car@hotmail.it è l'indirizzo che dovete utilizzare. Chiaramente car si scrive car@hotmail.it. And love was not an easy thing. The only baggage that you can bring. Love was not an easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. Flown away as Utilizzare questo brano come ante-antesigla rispetto a quella che è la normale programmazione di Out of the Shell, un po' prima del Se non era quando di Massimo Zamboni. 30 secondi prima di andare in onda ho cambiato idea. So di avere promesso stasera di fare una programmazione musicale molto particolare nel mezzo del delirio dei miei pensieri, però questa Walk On è una canzone che anni fa YouTube, un gruppo che amo tantissimo, che ricordano i miei tempi liceali, no, quando sono nati loro ero già all'università, scusate, è un gruppo che ho seguito sin dalle loro origini, praticamente ho tutto di loro, tranne le ultime cose, perché scusate, non ce la faccio. Quando hai passato la tua vita a studiarti ogni minima battuta di Boyce, non puoi accettare ciò che avviene. Un po' come se hai amato e non siamo mica gli americani di Vasco Rossi, non puoi ascoltare Vasco Rossi, quelle cazzate che fa adesso. Comunque ho scelto Walk On per un semplice motivo. Uno, perché vorrei dare la mia insignificante solidarietà a alle lotte che si fanno per salvare Saniche. L'ennesima lotta contro la pena di morte, che in qualsiasi forma sia fatta negli Stati Uniti, con la sedia elettrica, con la iniezione letale, e in varie parti del mondo con la fucilazione, con l'impiccagione o con la lapidazione. Ma la mia solidarietà anche contro quello che è una forma di repressione e non rieducazione al reato, come anche quello che rappresenta il carcere a vita, l'ergastolo. Una presa per il culo che poi, specie in Italia, non si realizza quasi mai, a meno che non sei un coglione extracomunitario che non uscirà mai e vedrà mai la luce nel sole e morirai dentro quattro sbarre se non ti impicchi più. Per cui per me Saniche rappresenta la lotta rispetto alla totalità della disumana repressione della vita umana che viene fatta con le guerre, che viene fatta con ogni forma di repressione, che viene fatta quando chiudono i centri sociali, quando invece si aprono centri sociali perché fanno parte dell'attuale regime, dell'attuale dittatura, e che vengono giustificati. Ma neanche un po' nel tema della trasmissione di stasera, vuole rappresentare attraverso l'esempio e la resistenza di Aung San Suu Kyi anche quella che è la lotta, la resistenza che da un anno tutti i precari della scuola o dell'università o tutti i precari del lavoro, i cassi integrati, stanno effettuando nel silenzio le loro lotte per salvaguardare quella dignità che è il lavoro, quel lavoro che è tutta la negazione dei diritti creati con le lotte degli anni 70 che si erano raggiunte. E nel momento in cui si reprime e si criminalizza l'immigrazione dal terzo mondo, distrutto, saccheggiato da noi occidentali, nello stesso tempo noi occidentali stiamo tornando ad accettare per un tozzo di pane i diritti da terzo mondo, perché se no c'è la povertà. C'è una cosa che da questo momento vi devo dire. Io avevo fatto una promessa e la mantengo. Da questo momento in poi tutta la musica che ascoltate è una musica che risale a circa tra i 40, 35 e 50 anni fa. È tutta musica originale. Allora non esisteva il digitale, allora non esisteva lo stereofonico, per cui non mi massacrate per come si ascolta la musica. Allora la musica si ascoltava così. Thank you. its light into ashes. Breeze adapted the forces tethers from the axis. Searchlight casting for faults in the clouds of delusion. Shall we go, you and I, while we can? Through the transitive nightfall of dying. Thank you. Thank you. endless reflections of matter. Glass and dissolving in ice, petal flowers revolving. Lady in velvet recedes in the nights of goodbye. Shall we go, you and I, while we can? The transitive nightfall of diamonds. Come dicevo prima, c'è una cosa che mi colpisce e mi inquieta in questo inizio, non so se dire d'autunno o questo fine estate. E mi inquietano le prove di regime, un regime che di cui almeno chi come me è sempre stato cosciente che si stava realizzando e che non so quanta coscienza ci sia intorno, perché se vedi rappresentato in televisione una ragazzina di 17 anni che dice qual è la tua massima aspirazione, e lei dice fare la maestra d'asilo, bellissimo, e poi dice contemporaneamente e la fotomodella, e alla domanda ma sono due cose totalmente distanti, e la risposta è ma la fotomodella non ha una carriera lunga, per cui dopo posso fare anche la maestra d'asilo. E contemporaneamente un ministro dello Stato davanti a proteste estreme, a proteste che sono conseguenza della piena presa di coscienza di un qualcosa che già dall'anno scorso era iniziato e minacciato e realizzato in quest'anno, e tutti lo stanno toccando con mano, ossia i tagli nella scuola, con un'arroganza davanti a chi vive questa drammaticità e alla protesta continua a dire basta dire, tanto sono politicamente strumentalizzati perché ci attaccano, io ti dico che ho fatto questo, questo e questo, che con l'altro governo è stato fatto questo, questo, ma a me che cazzo me ne fotte. Se io per 30 anni, perché il governo italiano doveva risparmiare, dovevo calcolarmi i giorni di supplenza, i giorni di incarico, che poi se non li realizzavo automaticamente entravo e mi dovevo preoccupare se mi davano quei 2 mesi che mi erano giustificati con la disoccupazione, per cui entravo in un'altra posta di bilancio, che poi nello stesso tempo, poi a settembre dell'anno dopo, il 30 agosto, io mi dovevo presentare davanti al provveditorato e stare là a fare la fila e capire se per andare a fare punteggio, per sperare nell'immissione al ruolo per un concorso che avevo già vinto, dovevo farmi 200-300 chilometri, alzarmi alle 5 di mattina, e nello stesso tempo per me l'insegnamento in scuole disagiate cominciava a essere una cosa, praticamente un lavoro di volontariato, perché erano più le spese che avevo per un altro poco per viaggiare, perché non avevo nessun tipo di agevolazione. Ma questo vale per qualsiasi lavoro precario. Se nell'industria si chiudono le fabbriche per riaprire sotto nuovo nome, che con la mobilità, con gli ammortizzatori sociali si rientra con un nuovo contratto, che il nuovo contratto non è più a tempo indeterminato, che se lo accetti è un contratto a tempo determinato, per cui non hai più nessun diritto, devi solo lavorare, massacrarti e fare cazzo. È un anno che lo dico, dal 1 gennaio, e per tutta l'estate si è sentito dire un coglione che diceva andiamo al voto perché tanto vinco di nuovo io, perché porto in televisione le velone e tutti quanti quelli che devono sopravvivere pensano a me che do la speranza, il messia. Ma vaffanculo, cazzo, vieni a vivere in mezzo alla gente. Ripeto, mi è stata chiesta della musica stasera e 50 anni fa la musica si registrava così. Thank you.

my life because a man to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better. Ascoltavo questo brano e pensando al titolo del brano successivo mi sono venuti in mente due episodi del mio passato. Io ero tra un insignificante e anonimo tra quelle 3 milioni di persone che protestavano contro l'attacco in Iraq da parte di Bush, quella guerra che stanotte, ieri notte, Obama ha dichiarato praticamente cessata dopo 7 anni. Ma il ricordo più lampante era che non ricordo se tornavo da un concerto dei CSI, uno dei PGR, con aspettate, chi era l'ospite, cazzo, non mi ricordo chi era l'ospite, però era una cosa favolosa vederlo suonare, era una cosa favolosa. Tornavo da Cosenza ed era il giorno in cui Bush aveva minacciato l'attacco. Ricordo che i ragazzi che erano con me in macchina si erano addormentati, forse proprio Lou Reed, ero andato a vedere, e tornando ero sintonizzato in macchina perché con i fusi orari dovevo capire se tutta quella mobilitazione internazionale poteva avere un seguito, poteva prendere un coglione e fermarlo. E ricordo la sensazione a pelle che non mi ha impedito di continuare le lotte, non mi ha impedito di essere qui e continuare a parlare di lotta, di resistenza, di voglia di un altro mondo è possibile, di democrazia partecipata, di un mondo pulito, non fatto di inquinamento, un mondo in cui l'equità e l'equità sociale dovrebbe essere il credo. E nello stesso tempo vedo, osservo e ascolto quello che sta avvenendo adesso. Visto l'ora mi posso permettere delle disquisizioni che nessuno ascolterà mai. Se in questo momento dentro di me posso avere un piccolo sogno e vedere transizione di fase promotrice, in totale autogestione con tutti i movimenti d'Italia, e portarli in piazza, non col proprio protagonismo, non con l'autocelebrazione delle proprie lotte, ma semplicemente una presenza allegra, partecipata, autogestita, per dire basta. Your social graces, whoa, and the You know who, with his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Chiaramente io faccio parte di una generazione che in un modo o nell'altro è venuta dopo il 68, nel senso che nel 68 io avevo 5 anni, quindi non potevo comprendere una famiglia tipicamente italiana, cattoborghese, che ti teneva totalmente fuori da ogni tipo di... Poi abitando a Reggio Calabria, immaginatevi voi che cazzo di cosa potevo avere. Però ho imparato ad apprezzare lo spirito e ciò che di positivo c'era in quel periodo. Spiego un pochettino il retroscena della musica di questa sera. Secondo me qualcuno è andato nel mio profilo Facebook, e vi assicuro che io odio Facebook, cioè, come transizione di fase, come Out of the Shell, come io personalmente lo utilizziamo solo esclusivamente per comunicare e per una forma di interazione con le persone, visto che ormai lo usano tutti. Poi c'è Jobs della Apple che adesso vuole fare il Facebook, il social network musicale, quindi dovremmo studiarci anche tutta quella cazzo di comunicazione che è internet. Però siccome noi comunichiamo su internet, dobbiamo necessariamente interagire per raggiungere con ciò che vogliamo esprimere questi canali, non ne abbiamo altri. Personalmente, avessimo la possibilità di andare via etere in maniera molto semplice, preferirei molto andare via etere che utilizzare internet. Però è questo l'unica cosa che possiamo fare, e ce la dobbiamo tenere sino a quando non abbiamo alternative. Quando avremo l'alternativa poi me la spieghi questa. Cioè, andare via etere significa, cioè, non ce lo permette il sistema, cioè, o quantomeno io quantomeno andrei via etere, mi assumerei tutto il possibile immaginabile, però il problema è tutto il sistema e il collettivo che deve assumersi le sue responsabilità. Cioè, qualcuno oggi mi ha detto ma fai ascoltare, che poi tra l'altro penso che non stia nemmeno ascoltando, penso che si ascolterà la replica tra 20 minuti quando la pubblico, mi ha chiesto mandi un po' di musica hippie, ed è questo che mi ha colpito. Non esiste la musica hippie, non è mai esistita. Nel campo della musica, la musica ha avuto altri percorsi, era ascoltata dagli hippie. Forse se si prende Woodstock come esempio rimasto nella memoria e nella storia, la chi si esibì sul palco, 2 ore di trasmissione non mi permettono di farvi ascoltare qualcosa come 3 ore di ricerca musicale negli archivi. Cioè, dovrei praticamente, per farvi ascoltare tutto ciò che ho selezionato per una cosa del genere, dovrei trasmettere tutta la notte. Ma noi siamo un contenitore che è paragonabile a una radio, e ogni spazio, ogni momento ha il suo modo di esistere e di esprimersi, e lo deve fare in quel momento. Non è detto che tutta sta musica si riprenderà o non si riprenderà, ma intanto, sino a quando potete, godetevela. on a midnight train through the fine and cold of rain. Who do you love? Who do you love? Yeah. glass of bar wine. I got a cobra snake for necktie. Got a house by the roadside made out of rattlesnake. Get me a chimney made out of dime. You know it's made from a human skull. Come on, take a little walk. Tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Yeah. cazzo mandavo sta musica 30 anni fa io? Comunque. Mi scuso con tutta la transizione di fase per aver sforato, non potevo tagliare questo brano che era anche quello che in un modo o nell'altro dà ispirazione a tutta la trasmissione stasera. Rivelo un segreto, oggi pomeriggio mi è stato chiesto perché non fai ascoltare un po' di musica hippie. Cazzo, che significava fare ascoltare musica hippie? Sono andato a ritroso nei miei archivi, ci sono stato un paio d'ore a cercare tutti questi vinili, i CD che ripercorrevano, le cassette, tutto quello che avevo per poter selezionare una cosa. Torno a ripetere, per tutto ciò che ho selezionato in un'ora avremmo fatto mattino per farvi ascoltare musica, e più l'ascoltavo e più mi sentivo forse nella dimensione mia del perché Out of the Shell è tornata. Se tutto va bene, perché col web, con internet dobbiamo lottare con un qualcosa di indefinito e non sempre funzionante. Tra 20 minuti vi pubblico questa trasmissione sul sito di Out of the Shell, ossia www.ots.it, www.outofthishell.it. Ve la potete ascoltare o farla ve la potete riascoltare o farla ascoltare, per quanto mi riguarda l'unica cosa che posso fare è darvi appuntamento a domani. Ciao, buonanotte. si sfoca quando contro luce vedrai. Contro luce vedrai. Scritto nell'anima, scritto nell'anima, scritto nell'anima. Sappiano guardare, mani che sappiano tenere, occhi che vogliano imparare, mani che sappiano tenere, ricordati.